so far is lonely. Standing there, killing time. Can't commit to anything but a crime. Leaders on vacation, an open invitation. Animals, evidence. Pearly gates look more like a picket fence. Once you get inside them, got friends but can't invite them. Hills burn in California. My turn to ignore ya. Don't say I didn't warn ya. All the good girls go to hell, 'cause even God herself has enemies. And once the water starts to rise and heaven's out of sight, she'll want the devil on her team. My love so far is lonely. Look at you, needing me. You know I'm not your friend without some greenery. Walking wearing feathers, Peter should know better. Your cover-up is caving in. Man is such a fool, why are we saving him? Poisoning themselves now, begging for our help. Wow. Hills burn in California. My turn to ignore ya. Don't say I didn't warn ya. All the good girls go to hell, 'cause even God herself has enemies. And once the water starts to rise and heaven's out of sight, she'll want the devil on her team. My love so far is lonely. There's nothing left to say. My God is gonna own me. There's nothing left to say. Ciao a tutte, ciao a tutti, ben trovate e ben trovati. Questo è sempre La Mucca Libera, l'unico programma antispecista in onda su www.radioasilo.it tutti i lunedì dalle 19 ed in replica il giorno dopo, il martedì mattina, a partire dalle 11. Cominciamo subito con la nostra sezione notizie e cominciamo con una notizia che in realtà in parte abbiamo già dato nelle scorse puntate e stavolta c'è qualche piccolo aggiornamento. Si tratta di un in passato abbiamo già parlato di alcuni dati presentati dall'UNEP, che è il programma per l'ambiente delle Nazioni Unite, riguardo la pandemia da coronavirus che abbiamo vissuto, ma pochi giorni fa è uscito un rapporto presentato sia dall'UNEP che dall'IRLI, che è l'Istituto Internazionale per la Ricerca Zootecnica, che riprende alcuni punti già trattati dall'UNEP, di cui noi avevamo già parlato, e li amplia aggiungendo anche altre considerazioni. Il titolo del rapporto è Preventing the Next Pandemic, e quindi mentre nel mondo molto si è detto e si continua a dire riguardo la gestione degli effetti da coronavirus, questo rapporto si concentra soprattutto appunto sulla prevenzione delle future pandemie e per questo si concentra soprattutto su quelle che sono le cause della pandemia che stiamo vivendo e delle altre zoonosi. Riporta anche alcuni dati già riportati in un rapporto precedente, in cui si segnalava che il 60% delle infezioni umane ha un'origine animale e di tutte le malattie infettive emergenti ben il 75% ha fatto un salto di specie. L'elenco delle zoonosi infatti sarebbe lunghissimo e già da tempo, negli ultimi decenni, circa 2 milioni di persone ogni anno muoiono per zoonosi, al di là della questione del Covid-19 che abbiamo vissuto quest'anno, soprattutto nelle zone più povere del mondo. In questo rapporto, quindi, i due enti si concentrano appunto sulle cause, individuando sette fattori che sarebbero tra le cause, che sono tra le cause delle zoonosi. E il primo fattore è proprio la maggiore richiesta di proteine animali che c'è nel mondo. Il secondo, l'aumento dell'agricoltura intensiva e quindi non sostenibile. Il terzo, lo sfruttamento della fauna selvatica, e quindi questi tre vengono individuati come gli sfruttamenti, diciamo come le forme di sfruttamento, come tra le tre cause appunto principali. E poi seguono in ordine di importanza l'utilizzo massivo delle risorse naturali attraverso l'urbanizzazione e l'industria estrattiva, l'aumento dei viaggi, dei trasporti e la crisi climatica. Queste sette cause erano già state identificate in un altro rapporto precedente, ma questo nuovo in particolare si concentra anche su ciò che si potrebbe fare per prevenire le successive pandemie, e dà già per scontato che comunque ci saranno negli anni a venire delle pandemie successive. In particolare, questo rapporto rivela che l'Africa individua nell'Africa la zona che in particolare ha vissuto e ha risposto a una serie di epidemie zoonotiche, tra cui più recentemente per esempio le epidemie di Ebola, e quindi individua nell'Africa la zona che potrebbe essere una fonte di importanti soluzioni per sedare i futuri focolai, perché appunto l'Africa ha già dovuto affrontare problematiche similari ed è riuscita a superarle. Ovviamente, individuando queste cause in questo ordine di importanza come quelle che ho già detto, è ovvio che rende molto chiaro che il problema alimentare è centrale. Nei paesi ad alto reddito ci sono stati pochi cambiamenti nel consumo di alimenti di origine animale negli ultimi 40 anni circa, ma nelle nazioni a basso e medio reddito, insieme ad un significativo importante aumento della popolazione, gli ultimi 40-50 anni hanno registrato anche un'elevata crescita del consumo e della produzione di carne, circa il 260% di crescita, della produzione e del consumo di latte, circa il 90% in più, e di uova addirittura al 340% in più. E questa è una tendenza degli ultimi circa 50 anni al rialzo, che in questo rapporto si sottolinea bene che, se queste sono le condizioni, continuerà ancora a aumentare. Allora, torniamo in voce, e l'altra notizia che diamo è sempre relativa al coronavirus e a come le varie nazioni, i vari governi intendono fronteggiare la diffusione della pandemia in relazione anche a quello che è poi lo sfruttamento degli animali. Infatti in Cina recentemente c'è stata una stretta sui mercati con animali vivi, da cui si dice appunto sia nata poi la diffusione del coronavirus, con la zoonosi che pare sia partita, si dice sempre, non è sicuramente certo al 100%, comunque che sia partita dai mercati umidi di Wuhan in Cina. In base a una nuova proposta che è stata presentata al Parlamento cinese, adesso i mercati che si occupano del commercio di animali e prodotti di origine animale sarebbero tenuti, se passa questa modifica, a rispettare alcune norme per la prevenzione delle epidemie in particolare, e quindi ad attenersi a una supervisione più stretta, quindi con più controllo. Secondo questa bozza che è appunto in discussione al Parlamento cinese, i governi locali, quindi i governi provinciali a livello di contea, sono autorizzati a vietare il commercio di pollame vivo e di bestiame all'interno di determinate aree. La proposta chiarisce anche le responsabilità legali dei mercati di animali e prodotti animali che non sono in grado di soddisfare le norme per la prevenzione delle epidemie. E quindi, insomma, questo è un dibattito che continua su come evitare appunto la diffusione della zoonosi in questi mercati. Parliamo di una specie molto particolare di animali, molto bella, di tartarughe marine. E in particolare 25 tartarughe marine sono tornate in libertà a Bali perché sono state salvate dal bracconaggio. 25 tartarughe verdi marine che sono tornate a nuotare fra i coralli. Stiamo parlando di una specie che è a rischio di estinzione e che quotidianamente è al centro del bracconaggio, quindi di azioni violente ed illegali. In genere la cattura di queste tartarughe, oltre a causare danni e a volte purtroppo anche la morte di alcuni esemplari, causa fortissimi livelli di stress e uno shock da cui non tutte le tartarughe riescono a riprendersi. Quindi la speranza è che queste tartarughe, queste 25 tartarughe rilasciate, che sono in apparente buono stato di salute, riescano a tornare alla loro vita di prima e soprattutto possono tornare a deporre uova, assicurando un futuro ad una specie che appunto è in rischio di estinzione, perché 6 delle 7 specie di tartarughe marine conosciute al mondo vivono proprio in Indonesia, quindi infatti parlavamo di Bali in Indonesia, e sono tutte in pericolo di estinzione. Le tartarughe vengono catturate per le loro uova, poi purtroppo vengono anche sfruttate per altre cose come la pelle, la carne, e oltre al bracconaggio hanno anche un nemico altrettanto temibile che le mette in pericolo quotidianamente, che è l'inquinamento dei mari. Riprendiamo un aggiornamento di una notizia che abbiamo dato qualche settimana fa relativa ad una misteriosa strage di elefanti in Africa, in Botswana, una strage di cui si ignorano tuttora le cause, però l'aggiornamento è che c'è un'ipotesi che la causa di questa strage potrebbe essere derivata da una tossina naturale. Oltre 300 elefanti sono stati trovati morti negli ultimi mesi nel delta dell'Okavango in Botswana. Finora le autorità hanno escluso come cause di questa strage sia l'antrace che il bracconaggio, poiché le zanne sono state trovate intatte di questi elefanti. Adesso quindi le autorità forestali puntano il dito contro alcune tossine naturali che producono naturalmente un veleno, in particolare un veleno che si diffonde nell'acqua stagnante. Quindi un rapporto diffuso a inizio luglio realizzato da un'associazione animalista che si chiama Elephants Without Borders parla di 356 decessi, spiegando che gli elefanti colpiti non hanno particolari caratteristiche di età o di sesso, mentre molti di loro poco prima di morire sono stati visti deboli, letargici ed emaciati. Alcuni mostravano segni di disorientamento, difficoltà a camminare o a zoppicare. Torniamo in voce dopo essere stati in musica grazie ai Prodigy con Brit e torniamo alle nostre notizie. Ne avevamo già parlato perché è accaduto poco tempo fa, nella notte tra il 28 e il 29 luglio era stata catturata un'orsa accompagnata da 3 giovani cuccioli ed era stata radiocollarata prima di essere rimessa in libertà, un'orsa adulta di cui non si era sicuri di averla identificata. Si sospettava che fosse GG4, ma solo le analisi genetiche lo avrebbero confermato e in effetti è così, le analisi sono terminate ed è l'orsa che è stata nuovamente radiocollarata, è proprio GG4, accompagnata in quella occasione dai suoi 3 cuccioli. Ricordiamo anche che il TAR di Trento aveva sospeso l'abbattimento dell'orsa e che il 22 di ottobre sarà ridiscussa la questione dell'abbattimento, per cui potrebbe definitivamente essere annullata l'ordinanza che appunto ne prevedeva l'abbattimento, e GG4, che per il momento ha almeno salva la vita, potrebbe averla salvata definitivamente. Sempre connesso a queste notizie riguardanti gli orsi in Trentino, mercoledì prossimo, tra 2 giorni, ci sarà una riunione da parte di diversi assessori del Trentino con il ministro dell'ambiente a Roma. Questa riunione riguarderà proprio la gestione di orsi e lupi nel Trentino. In Trentino attualmente, per quanto riguarda gli orsi, ultimamente si è contato che si è arrivati a 93 esemplari con i cuccioli nuovi, che hanno portato appunto il numero di orsi presenti da 82 a 93, e gli assessori a Trento parlano appunto di sovraffollamento. Loro ritengono che la capienza massima del Trentino sarebbe di una 60ina circa di orsi, per cui loro parlano proprio virgolettato, insomma vi riporto il virgolettato, di sovraffollamento, per cui in questa riunione mercoledì chiederanno tra le altre cose al ministro anche come gestire questo sovraffollamento e come soprattutto gestirlo nel senso di ridurne la popolazione, e chiederanno quindi al ministro per l'ambiente che ci siano dei luoghi dove portare questi animali in eccesso e dove poter trasferire, chiederanno anche i soggetti ritenuti pericolosi. I soggetti ritenuti pericolosi ovviamente in questo momento sono i nostri eroi e le nostre eroine, sono i famosi M49 e GG4 che sono ancora liberi, ma anche un cucciolo nella zona di Cave d'Ago che a quanto pare, pur essendo molto piccolo, è stato segnalato più volte dai cittadini, ma anche da parte diciamo di elementi delle istituzioni, che questo cucciolino a quanto pare si avvicina un po' troppo alle abitazioni, si avvicina un po' troppo alle zone che sono molto abitate dall'uomo, e quindi è stato definito un cucciolo troppo confidente e in quanto tale probabilmente sarà inserito in questa lista di soggetti pericolosi M49 e GG4 di cui verrà chiesta risposta al Ministero per la gestione. Anzi, per questo cucciolo hanno specificato gli assessori che hanno già pronta la richiesta da fare al ministro e l'eventuale ordinanza di catturare il piccolo orso e mettergli il radiocollare per poi rilasciarlo nuovamente. Ovviamente tutte queste considerazioni sono considerazioni che partono dall'uomo e dalla sua posizione di sfruttamento, controllo e repressione di quelle che sono le altre specie, perché se ci si ferma anche solo un secondo, anche solo per un attimo, a riflettere sul fatto che quello è l'habitat naturale di quella specie e che quelle creature non fanno altro che vivere in quello che è il loro ambiente, ci si chiede come si possa definire quindi sovraffollamento, come ci si possa chiedere di tenere sotto controllo quella che è la vita delle altre specie. In my torniamo in voce, parliamo della Grecia, una notizia che ci viene dalla Grecia, dove non esistono ufficialmente mattatoi autorizzati per la macellazione dei cavalli, tuttavia, a causa dell'accresciuto utilizzo nell'ippica e negli sport equestri, recentemente si è registrato, appunto negli ultimi anni, un aumento preoccupante di macellazioni illegali. Adesso però il paese ellenico si sta adeguando alle normative europee sull'anagrafe e ha fatto un passo in avanti rispetto alla tutela dei cavalli a livello normativo, perché appunto dallo scorso 29 luglio in Grecia è vietata la macellazione dei cavalli, come per i cani e per i gatti, il loro uso nella produzione di carne, pellame, medicinali e prodotti vari. Questo divieto è stato inserito in un emendamento ad una legge già preesistente, che è data dal 2012 e prima era riservata solo alla tutela dei cani e dei gatti. Infatti nell'articolo 17, che è stato pubblicato il 29 luglio scorso sulla Gazzetta Ufficiale greca, nell'articolo 17 si legge che è vietato l'allevamento e l'utilizzo di animali per i combattimenti e per le attività correlate. È vietato altresì allevare e utilizzare cani, gatti e cavalli, quindi adesso questa è l'aggiunta, la modifica, e cavalli per la produzione di pellicce, cuoio, carne, fabbricazione di medicinali e altre sostanze. Aggiungiamo in conclusione di questa notizia che ci viene dalla Grecia che da noi, a differenza del paese ellenico, c'è un grande consumo di carne di cavallo, purtroppo, che addirittura rende il nostro paese un triste primato in Europa per la macellazione di cavalli, per il consumo di carne che viene importata anche dall'estero. Plain talking, plain talking. Take us so far, take us so far. Broken down car, broken down car. Like strung out old stars, strung out old stars. Plain talking, plain talking. Served us so well. Riprendiamo un comunicato molto interessante e importante che ci viene da un sito da cui spesso traiamo alcune notizie molto importanti per il movimento antispecista e di liberazione animale a livello internazionale, non solo italiano, che è quaglia.noblogs.org. Il sito ci parla dell'Olanda, dove è stato arrestato un attivista antispecista per un incendio. Il 28 maggio, leggiamo appunto questo comunicato molto interessante, il 28 maggio l'unico mattatoio olandese che uccide anatre è stato attaccato. 5 camion di trasporto carne sono stati incendiati e distrutti. Un congegno incendiario nel macello non ha però preso fuoco. Questa azione sarà poi rivendicata come azione dell'Animal Liberation Front. La persona dietro a questa azione ha dovuto andarsene prematuramente, perdendo le chiavi della propria auto e abbandonando l'auto sul posto. Una settimana dopo, essendo ricercato dalla polizia, si è consegnato. Oggi è stato reso pubblico il suo nome. Si tratta di Peter Jansen, conosciuto principalmente per il suo attivismo con il gruppo Vegan Strike nell'interrompere le corride, nelle investigazioni e negli allevamenti di conigli con Gin Nud e nella realizzazione di liberazioni a volto scoperto. Peter rimane in carcere in custodia preventiva, accusato di incendio con rischio per la merce, anche se il pubblico ministero sta spingendo per cambiare l'accusa in incendio con rischio per le persone. Per ora non c'è un indirizzo pubblico per le lettere, né un gruppo organizzato di supporto. Non appena si saranno organizzate le raccolte fondi e ci saranno maggiori informazioni, ci ricorda il sito di Quaglia, faremo in modo di renderle pubbliche. Il comunicato si conclude con un'esortazione che la solidarietà è la nostra arma fino alla vittoria. Oh la la la la la. Parliamo di sussidi alla pesca, una pratica veramente terribile e vergognosa che ogni tanto ci tocca purtroppo ricordare in questa trasmissione. Parliamo anche di come vengono finanziati, come vengono finanziate le industrie ittiche, e purtroppo stanno aumentando questi finanziamenti. Ogni anno tutti i governi nel loro complesso indirizzano 35 miliardi di dollari alle attività collegate alla pesca. Ben 2/3 sono riservati addirittura a quella intensiva, che è un'attività indiscriminata che, oltre al quotidiano sterminio di questi animali, dei pesci, purtroppo impatta anche in modo devastante sugli ecosistemi degli oceani. Di recente è uscito un nuovo allarmante studio della Columbia University. Gli scienziati dell'università, in un'indagine che ha coinvolto 152 paesi, hanno scoperto che le nazioni lontane dagli oceani hanno speso nel 2018 circa 22 miliardi di dollari, che vanno ad alimentare attività come la pesca illegale e quella intensiva. Oppure, in quei sussidi, ben il 22% del totale che sono utilizzati per il carburante dei pescherecci. Parliamo in particolare della Cina, che secondo uno studio pubblicato su Marine Policy, negli ultimi 10 anni ha aumentato le sovvenzioni per la pesca intensiva e per il carburante ben del 105%, per sostenere quella che è la più grande flotta peschereccia nel mondo. Sempre l'inchiesta delle Nazioni Unite afferma che un terzo degli stock ittici viene sfruttato a livelli che non sono sostenibili e il 90% è utilizzato appieno. Se guardiamo per esempio al tonno rosso del Pacifico, la popolazione è crollata del 97% addirittura, dai livelli storici, proprio a causa di quello che è un sovrasfruttamento e della pesca intensiva, che, come appunto abbiamo detto, viene finanziata in maniera spropositata. Negli ultimi decenni le nazioni che hanno visto crollare la portata delle proprie riserve ittiche hanno inviato pescherecci nelle acque territoriali di altri paesi, come la Cina, che ha catturato circa la metà del pescato in alto mare nel 2014. Come riferiscono i ricercatori della Columbia University, la sola Cina fornisce la maggior parte dei sussidi di qualsiasi nazione, circa 7 miliardi di dollari nel 2018, rappresentando il 21% del supporto globale. Mentre lo studio afferma che gli aumenti generali delle sovvenzioni dovrebbero stabilizzarsi, a giugno, invece, purtroppo, l'Unione Europea, dobbiamo sottolineare, si è mossa in controtendenza per ripristinare le quote che andranno ad aumentare la flotta e la pesca. L'Unione Europea rappresenta già l'11% di sussidi a livello globale e lo scorso anno, secondo i ricercatori, ha assegnato 2 miliardi di dollari in finanziamenti per gli allevamenti intensivi. Come on. I have to praise you. have to celebrate you, baby. I have to praise you like I should. I have to praise you. Eccoci di nuovo in voce, siamo arrivati a quella che è la nostra consueta ormai rubrica di letture e visioni antispeciste. Questa settimana parliamo di un documentario che del 2014, è molto importante, è molto anche stato molto diffuso, se ne è parlato molto, di Cowspiracy, il segreto della sostenibilità ambientale. Cowspiracy è stato prodotto e diretto da Kip Anderson e Keegan Kuhn. Di questo documentario si può dire che è stato anche profetico, se vogliamo, nel senso che nel 2014 parlare della sostenibilità ambientale, dell'impatto che ha l'industria animale sull'inquinamento e sulla devastazione del pianeta, come appunto il documentario mostra, poteva sembrare anche un po' un argomento di nicchia e una questione non dibattuta. Sicuramente oggi lo scenario è diverso, dopo tutti i rapporti delle Nazioni Unite sull'argomento e anche tutto il dibattito che c'è stato in questi anni, recentemente anche la diffusione delle zoonosi. Parlare oggi dell'impatto dell'industria animale sull'inquinamento, sulla sostenibilità ambientale, forse è anche più, fa parte anche di un dibattito mainstream. Nel 2014, invece, forse anche la bellezza di questo documentario, lo scenario era completamente diverso, perché in quest'opera di Andersen e Kuhn abbiamo il protagonista, che è lo stesso Kip Anderson, che è un ambientalista che è fortemente impegnato nel tentativo personale, individuale, di ridurre il proprio impatto ambientale sul pianeta. Quindi fa una serie di ricerche, mette in atto una serie di comportamenti, che tipo utilizzare l'acqua con parsimonia, non guidare la macchina ma utilizzare la bicicletta, fino a che si imbatte in una ricerca che indica che appunto l'impatto dell'industria animale, sia quella intensiva che quella biologica, l'impatto sulla terra è enorme in termini di deforestazione, consumo di acqua e spreco di risorse. Da questa presa d'atto, da questa cosa che scopre Kip Anderson, che gli cambia un po' il suo modo di vedere la realtà, si accompagna un'altra scoperta che poi diventerà un po' l'oggetto di tutto il documentario, che è anche a volte grottesco e tragicomico, perché le principali associazioni ambientaliste che lui contatta, che sono intente a criminalizzare l'industria del petrolio, del gas, le multinazionali nelle loro battaglie, e quando Andersen gli parla dell'impatto dell'industria animale, dello sfruttamento animale, tutte queste associazioni ambientaliste stranote come Greenpeace, il Sierra Club ed altre molto famose per essere impegnate con il loro attivismo per salvare il pianeta dall'inquinamento, ebbene, quando Andersen appunto fa presente l'impatto fortissimo dell'industria animale, dello sfruttamento animale sul pianeta, sull'ambiente, fanno orecchie da mercante, ci sono i responsabili della comunicazione di questi enti e di questi gruppi che si dileguano, non gli rispondono alle mail e quindi si nasce un po' questo grottesco, diciamo, nel documentario in cui una cosa che è sotto. Era sotto gli occhi di tutti già nel 2014, veniva negata anche da quei gruppi che poi dovrebbero essere stati all'avanguardia per cercare di porre rimedio diciamo, alla deforestazione, all'inquinamento. E quindi poi alla fine il documentario ci parla di quelle che poi sono le strategie che poi devono a questo punto nascere dal basso, perché anche gli organismi istituzionali negano, c'era tutto questo negazionismo anche istituzionale delle istituzioni ambientaliste in questo caso sull'impatto che dà lo sfruttamento animale. E quindi al termine di questa indagine diventa consapevole Andersen che per ridurre l'allevamento intensivo e raggiungere l'impatto maggiormente positivo sulla vita del pianeta, la soluzione maggiormente efficace è quella dello smettere di consumare carne e nello scegliere, di adottare un regime di vita vegano che appunto sia completamente al di fuori di una partecipazione individuale a quello che è lo sfruttamento e il consumo degli animali. Questo è un po' Cowspiracy. È un documentario che un po', diciamo, possiamo dire, ha fatto anche la storia del movimento ambientalista e, diciamo, poi di sfuggita all'atere parla anche un po' della questione antispecista, comunque collegata appunto rispetto a quello che è l'impatto dello sfruttamento animale sulla distruzione del nostro pianeta. Siamo arrivati ai saluti alla fine di questa puntata della nostra trasmissione. Ricordiamo il canale Telegram della Mucca Libera, su cui appunto metteremo ogni settimana i nostri podcast della trasmissione, alcune notizie provenienti dal mondo animale e dalla cultura antispecista. La mail per scrivere alla trasmissione è lamuccalibera@autoproduzioni.net. E, per il resto io vi ringrazio per aver ascoltato anche questa settimana la nostra trasmissione e, domani alle ore 11 saremo in replica sempre su radioasilo.it. Noi le prossime settimane saremo in vacanza per, diciamo, il periodo intorno a Ferragosto, poi a fine mese, inizio settembre, torneremo con la nostra trasmissione. Vi saluto di nuovo, un abbraccio a tutte e a tutti. My Lucifer is lonely. Standing there, killing time. Can't commit to anything but a crime. Leaders on vacation, an open invitation. Animals, evidence. Pearly gates look more like a picket fence. Once you get inside them, got friends but can't invite them. Hills burn in California. My turn to ignore ya. Don't say I didn't warn ya. All the good girls go to hell. Cause even God herself has enemies, and once the water starts to rise and heaven's out of sight, she'll want the devil on her team. My Lucifer is lonely. Look at you needing me.